TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Il Centro Caritas di Udine ha organizzato una raccolta straordinaria di coperte accessibili all'emporio di via Marangoni e anche una raccolta di cibo per la mensa diocesana che l'anno scorso aveva preparato oltre 100.000 pasti per i più bisognosi. Si potrà donare fino al giorno di Natale. A Trieste, nella chiesa di Sant'Antonio Taumaturgo, c'è stata una veglia di preghiera per riflettere sulla tragedia delle recenti morti dei migranti in regione. A presiederla il vescovo, Monsignor Trevisi, che ha lanciato l'appello: bisogna fare di più. Arrestati due individui responsabili di una truffa ai danni di un'anziana nel Medio Friuli. Si erano fatti consegnare degli oggetti di valore, ma sono stati fermati da veri militari dell'arma. In regione si inaugura la stagione sciistica con l'iniziale apertura parziale degli impianti nella maggior parte dei comprensori sciistici, cioè Piancavallo, Sappada, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Sauris, Ravascletto, Zoncolan e Tarvisio, mentre Sella Nevea sarà aperta da sabato prossimo. Seconda giornata per l'iniziativa di solidarietà Stelle di Natale AIL, promossa dall'Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma, da oltre 55 anni al fianco dei pazienti e delle loro famiglie. Il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, ha conferito la medaglia bronzea del Comune alle associazioni cristiane e lavoratori italiani, ACLI, provinciali di Trieste, nella ricorrenza dell'80° anniversario di fondazione. Sarà presentato al Cinema Harrison di Trieste il documentario intitolato Bobò, la voce del silenzio, dedicato alla vita di Vincenzo Cannavacciuolo, noto come Bobò, artista sordo e analfabeta, affetto da microcefalia, che visse per 46 anni in un manicomio ad Aversa. La nostra intervista al regista Pippo Del Bono. Le 12:32 minuti, questi titoli, ancora un buongiorno da Giorgio Bearz e da Maria Spezia, che condurranno insieme questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di sabato 6 dicembre. Questa mattina il Centro Caritas di Udine ha organizzato una raccolta straordinaria di coperte accessibili all'emporio di via Marangoni e poi una raccolta di cibo per la mensa diocesana che l'anno scorso aveva preparato oltre 100.000 pasti per i più bisognosi. Si potrà donare fino al giorno di Natale. La Caritas di Udine ha chiesto coperte e coperte sono arrivate in gran quantità nel giro delle 3 ore di raccolta straordinaria all'emporio solidale Pan e Gaban, un via vai continuo di auto e persino di un furgoncino. Piuttosto che buttar via e creare ulteriori immondizia, no? Meglio se si ricicla qualcosa e magari si fa un favore a qualcuno che ne ha bisogno. Ognuno porta il suo piccolo contributo e l'ho fatto anch'io. Con molto piacere. È una bella risposta, soprattutto perché le persone poi vengono a donare con gioia, quindi è sentita questa azione, semplice ma sempre ben accetta. Il freddo è il grande nemico di chi non ha una casa. Le 4 recenti morti di stranieri senza un alloggio in Friuli Venezia Giulia hanno lasciato il segno. 2 di loro, trovati senza vita in via Bariglaria, frequentavano la Caritas di Udine. Una delle referenti dell'emporio è Anna Zulian. Una morte così di persone giovani e in quel modo è tremenda. Si pensa a cosa si poteva fare di più, no? Però io penso che anche quello che facciamo oggi può essere un inizio di quello che possiamo fare di più. Non c'è bisogno solo di coperte, ma anche di cibo per la mensa di via Ronchi. Oggi il sugo come? Pomodoro. Niente carne? No, la carne rossa costa troppo, una volta al mese ci hanno detto di farla. La carne fresca è tra gli alimenti chiesti dalla Caritas Udinese, che invita a donare anche tonno, olio d'oliva e legumi. D'inverno sempre c'è un aumento del numero delle persone che si presentano. Noi adesso la mensa aprirà tra poco e ci sono almeno 150-180 persone tutti i giorni. Accogliamo anche famiglie con bambini che vengono qua, mangiano in uno spazio separato e vengono accolti, perché è il minimo che possiamo fare. Udine, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Ieri sera a Trieste, nella chiesa di Sant'Antonio Taumaturgo, c'è stata una veglia di preghiera per riflettere sulla tragedia delle recenti morti di migranti in regione. A presiederla il vescovo Trevisi, che ha lanciato un appello: bisogna fare di più. Non vogliamo che sia vissuto come un'accusa nei confronti degli altri, ma come invece la necessità di convertirci tutti. Un appello accorato a fare di più, rivolto alla comunità dei fedeli, ai rappresentanti delle altre confessioni e in generale a tutti i cittadini. Una lunga riflessione, quella proposta dal vescovo di Trieste Trevisi durante la veglia di preghiera per il migrante trovato morto in Porto Vecchio. Una lucida analisi della nostra società, dall'inverno demografico alla mancanza di empatia verso i poveri, fino al contrasto fra le luci natalizie della città e ciò che avviene all'interno del Porto Vecchio. Eppure l'impegno non manca, a iniziare proprio dalla diocesi. Ci siamo dati da fare, abbiamo aperto un rifugio notturno per le donne, per i bambini che transitano, che passano, che aspettano di essere chiamati dalla questura per essere collocati in strutture più adeguate. Abbiamo aperto una sala d'aspetto solidale e ci sono associazioni che fanno altro. Evidentemente c'è bisogno anche di altro. Nessuna polemica nei confronti delle istituzioni e un contributo per fronteggiare una situazione che non può essere ignorata. È un richiamo che stiamo facendo da tanto tempo con la volontà di collaborare. Io penso che siamo chiamati nella complessità ad ascoltarci per inventare magari quelle piccole cose che però salvano le persone. Su questo tema, quello dei migranti, quelli delle persone che transitano, come anche su altri temi. Se ci ascoltiamo un po' di più, forse anche dalla società civile, dalla base, possono arrivare degli indizi che poi la politica può fare suoi. Trieste, Paolo Roncoletta, TGR, Friuli Venezia Giulia. La Giunta regionale ha approvato la delibera che prende atto delle comunicazioni trasmesse da ASUF, ASUGI, ASFO e IRC Burlo Garofalo, con le quali si attesta formalmente la realizzazione degli interventi riguardanti l'incremento dei posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva e la ristrutturazione dei percorsi del pronto soccorso. In questa fase, secondo lo scadenziario del Ministero della Salute, è richiesto di attestare i soli interventi conclusi entro il 31 agosto 2025. Pertanto, nei prossimi mesi seguiranno ulteriori delibere che avranno oggetto interventi già realizzati nei mesi successivi oppure in corso di completamento. Sono stati arrestati due individui responsabili di una truffa ai danni di un'anziana nel Medio Friuli. Si erano fatti consegnare degli oggetti di valore, ma sono stati fermati da veri militari dell'arma. A settembre due giovani italiani sono stati arrestati in flagranza mentre truffavano un'anziana e la sua badante nel Medio Friuli. Si erano presentati come militari dell'arma in borghese e si erano fatti indicare dove erano conservati gli oggetti di valore. I carabinieri li tenevano sott'occhio da tempo e li hanno presi con la refurtiva in mano. Avevano bei vestiti, erano gentili, sono entrati, uno con una scusa mi ha portata fuori di casa. L'altro si è introdotto e ha chiesto dove fossero i gioielli da fotografare, ci ha raccontato Natalia, la collaboratrice domestica della signora truffata. Appena sono usciti dalla porta, sono arrivati i carabinieri, quelli veri questa volta. Siamo al comando provinciale dell'arma, a Udine, in compagnia di Jacopo Mattone, comandante della compagnia del capoluogo friulano, al quale chiediamo quanto sono frequenti queste truffe e quali sono i consigli per difendersi. Purtroppo questo genere di reati è diventato abbastanza diffuso e anche costante nel corso dell'anno, anche se ci sono dei periodi in cui ne avvengono di più e periodi in cui ne avvengono di meno. Le nostre raccomandazioni, che potete trovare anche sul sito ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, sono sempre le solite, cioè assolutamente diffidare di chi ci mette fretta, urgenza, ci pone in uno stato di pericolo e di preoccupazione e ricordarsi che noi assolutamente non chiediamo mai alcun tipo di soldi, valori di qualsiasi genere e soprattutto quando si ricevono queste chiamate via telefono attaccare e se possibile chiamare il 112 con un telefono differente per evitare che a rispondere in realtà sia la stessa persona che sta tentando la truffa. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. E la polizia di Trieste ha arrestato quattro persone individuate come autori di un furto avvenuto in un negozio di via Mazzini nella notte tra il 26 e il 27 novembre scorsi, in cui sono state sottratte una sessantina di borse di lusso del valore complessivo di circa 60.000 euro. I quattro, di passaggio a Trieste e alloggiati in un appartamento in affitto, si erano introdotti nel negozio di notte forzando la porta d'ingresso, ma subito erano stati identificati e rintracciati dalla questura di Trieste. Tutta la merce rubata era immagazzinata nella loro abitazione. A fronte della sussistenza del pericolo di fuga, l'autorità giudiziaria ha quindi disposto nei confronti dei ladri la custodia cautelare in carcere. È calato il sipario ieri su Go 2025, capitale europea della cultura, in un'atmosfera di grande festa in piazza Transalpina, dove si sono riuniti due cortei, partiti dal centro di Nova Gorizia e da via Caprin. Un doppio serpentone colorato con giovani, scuole, artisti, danzatori, musicisti e bande ha sventolato le bandiere italiana, slovena ed europea. A seguire la cerimonia ufficiale di chiusura e il passaggio del testimone da Nova Gorizia e Gorizia alla città slovacca Trencin e alla finlandese Oulu, capitali europee della cultura 2026. Ma cosa lascia in eredità Go 2025? La nostra intervista a Romina Coccina, direttrice del gruppo europeo cooperazione territoriale GECT. Sicuramente è un progetto che ci è caro e che ci ha portato anche tanti risultati, e sicuramente la piattaforma Borderless Wireless, la piattaforma online che è nata un po' come l'idea di avere semplicemente una pagina web in cui trovare le informazioni sul programma, ma in realtà è diventato quello che noi chiamiamo proprio un osservatorio dell'area borderless, e questo grazie al coinvolgimento di numerosi stakeholders di entrambe le parti del confine che ci hanno aiutato a riempirla di contenuti, di informazioni, non solo sul programma culturale ma anche di tutto il territorio, per renderlo fruibile anche dal visitatore, dal turista. Tanti sono stati gli eventi, tante le nuove infrastrutture, come è cambiata la città? Ah, la città si vede che è cambiata. Siamo in Transalpina, la piazza della Transalpina è stato anche questo un grande progetto importante che abbiamo a cuore, perché ci ha permesso di mettere insieme anche fisicamente, no, se vogliamo, le due città, avendo un posto unico che è di entrambe. La progettazione comune, cosa abbiamo imparato da questa esperienza e quali saranno i prossimi passi del GECT? Noi abbiamo ancora dei progetti che devono essere avviati, finanziati attraverso il bando Interreg Italia-Slovenia. Stiamo ultimando l'ultima graduatoria, quindi questo bando ci ha fatto vedere che il territorio è pronto alla collaborazione transfrontaliera, quindi ci aspettiamo ancora un anno ricco di eventi e di attività. Eva Ciuc, TGR Friuli Venezia Giulia. Si svolgeranno oggi a Gorizia le premiazioni del Natale friulano, con il riconoscimento di quest'anno a Matej Arkon, già sindaco di Nova Gorizia e promotore della cooperazione transfrontaliera, Walter Bandel, tutore della minoranza slovena, Feliciano Medeot, direttore della Società Filologica Friulana, Enrico Reitz, specialista in neurofisiologia, e Paolo Visintin, studente 19enne appassionato di storia contemporanea dell'area transfrontaliera, all'Auditorium della Cultura Friulana alle 17. Ed è promosso dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori, l'ILT di Trieste, il concerto di beneficenza del gruppo Diavolo in Noi, che si terrà a Trieste al Teatro Stabile Sloveno alle 20:30. Sfiorati i 5.000 sciatori nella giornata di avvio della stagione sciistica, con l'iniziale apertura parziale degli impianti nella maggior parte dei comprensori sciistici della regione, cioè Piancavallo, Sappada, Forniavoltri, Fondi di Sopra Sauris, Ravascletto, Zoncolan e Tarvisio, mentre Sella Nevea sarà aperta da sabato prossimo. Oltre 1.000 gli appassionati degli sport invernali che sono saliti sullo Zoncolan nella giornata che segna l'apertura ufficiale della stagione dello sci in Friuli Venezia Giulia. Facce sorridenti per l'emozione delle prime discese e per testare lo stato di forma sugli sci dopo la pausa estiva. Meteo favorevole, con sole temperature attorno ai 0 gradi, 4 impianti funzionanti, con 6 km di piste usufruibili, tutte con un fondo di neve programmata con 40 cm di profondità. Ma la vera novità di quest'inverno riguarda la sicurezza degli utenti. C'è infatti l'obbligo di indossare il casco protettivo per tutti, fino alla scorsa stagione dovevano averlo solo i minorenni. Una disposizione che è stata accettata positivamente dal popolo degli sciatori anche nel comprensorio carnico, visto che comunque la stragrande maggioranza ne faceva già uso. Per il momento, da parte degli agenti della Polizia di Stato presenti sui tracciati, non sono state comminate multe, sanzioni che prevedono un'ammenda da 50 a 150 euro e, in caso di recidiva, la sospensione dello ski pass. E sono stati in centinaia a partecipare all'Open Day organizzato dalle scuole di sci, iniziativa riservata ai neofiti della disciplina con mezz'ora gratuita di lezione da parte dei maestri. Un buon inizio di stagione, quindi, nonostante il comprensorio carnico per ora offra meno del 40% delle piste esistenti a causa delle condizioni ambientali che non hanno consentito l'innevamento programmato su tutti i tracciati. condizione questa che ha ulteriormente abbassato il prezzo dello ski pass giornaliero a 21,50 euro, quasi un quarto di quello che si paga in un'altra località dell'arco alpino. Zoncolan, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia. 12.44, passiamo al meteo, il cielo da sereno coperto sulla regione, queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 12 gradi, Udine 11 gradi e mezzo, Pordenone 11, Gorizia 10 gradi, in area montana Forni di Sopra e Piancavallo 6 gradi, Tolmezzo 5, Tarvisio 2 gradi e 5 decimi, a Sappada 1 grado e mezzo sotto lo zero, in quota sul monte Zoncolan 2 gradi, sul monte Lussari 1 grado e mezzo sotto lo zero. Sulla costa Lignano 10 gradi, a Grado 9. E queste le previsioni dell'ARPA per il Friuli Venezia Giulia. Oggi il cielo sarà da poco nuvoloso, variabile per velature. Soffierà a Borino, sul Carso e a Trieste. Lo zero termico in serata raggiungerà i 2000 metri circa. Seconda giornata per l'iniziativa di solidarietà Stelle di Natale AIL, promossa dall'Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma, da oltre 55 anni al fianco dei pazienti e delle loro famiglie. Per partecipare è possibile acquistare una stella di Natale in uno dei banchetti allestiti dall'Associazione, che saranno accessibili fino a lunedì 8 dicembre. L'elenco è pubblicato sul sito AIL.it. Anche quest'anno, oltre alla tradizionale pianta natalizia, in molte piazze si potrà ricevere anche la dolce stella Sogni di cioccolato AIL. E proprio quest'anno la sezione di Pordenone dell'AIL festeggia il suo 25° anniversario. Sentiamo il responsabile della comunicazione, Stefano Boscariol. Quest'anno è il 25° anno di attività, un'attività costante, quotidiana, fatta di tanti volontari. Abbiamo 25 anni che celebreremo stasera al Teatro Zancanaro di Sacile con un bel concerto gospel, ma non solo, ma siamo anche impegnati nelle piazze della provincia di Pordenone con la campagna nazionale delle stelle di Natale. Questi fondi che raccogliamo vengono distribuiti esclusivamente nella provincia di Pordenone, rimangono qua, non vanno a Roma, e questo ci permette di realizzare tante cose, tanti progetti. Non soltanto aiutiamo le famiglie, ma andiamo anche verso il CRO, verso l'ospedale civile di Pordenone, delle forme di finanziamento che vanno a concretizzare acquisto di materiale, formazione del personale, facciamo corsi per volontari attraverso anche la psicologa Arianna Pezzuto, abbiamo finanziato anche tante iniziative di professionisti e abbiamo anche incomodato d'uso due auto alla pediatria di Pordenone, ma anche altre due auto che noi utilizziamo per trasportare i pazienti, i familiari da casa ai centri di cura. Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza ha conferito poco fa la medaglia bronzea del comune all'Associazione Cristiani Lavoratori Italiani ACLI Provinciali di Trieste nella ricorrenza dell'80° anniversario di fondazione. Con i loro 41 circoli sul territorio, da Muggia a Ligosullo, offrono servizi essenziali per tante persone, dal CAF al patronato, dallo sport alla tutela delle colf. Ma le ACLI sono anche sentinelle dei problemi delle famiglie e dei lavoratori. La loro storia ottuagenaria è ripercorsa in una mostra alla Sala Veruda di Piazza Piccola a Trieste. L'importanza dell'opera portata avanti dai 200 volontari oggi attivi in Friuli Venezia Giulia è stata sottolineata dal vescovo di Trieste Trevisi e premiata con la medaglia bronzea del comune dal sindaco di Trieste Di Piazza. Le ACLI intercettano in presa diretta e prima di altri criticità e speranze dei cittadini, è stato detto, consentendo alle istituzioni di accelerare o aggiustare il tiro degli interventi. Questo perché, ha detto il vescovo, oltre ad offrire servizi, offrono ascolto. Valentina Benedetti, vicepresidente ACLI FVG. A volte sappiamo la domanda non è il bisogno vero, ma bisogna saperla leggere e cercare di dare una soluzione, una risposta o almeno un accompagnamento. Le associazioni cristiane lavoratori italiani sono nate nel 1945. La loro missione non è mai cambiata. Italo Sandrini, vicepresidente nazionale ACLI. Lo spirito delle ACLI è sempre stato quello del servizio. Tendenzialmente noi con i nostri sportelli cerchiamo in qualche modo di aiutare le persone che si trovano in difficoltà e che magari non trovano risposte da quelle che sono le istituzioni locali. Come ACLI non abbiamo mai perso questo tipo di atteggiamento, per cui crediamo che questi 80 anni non sia solamente un ricordo, ma sia una testimonianza del fatto che sugli ACLI ci si può sempre contare. Trieste, Francesca Vigori, TGR, Friuli Venezia Giulia. Questa mattina al mercato coperto di Trieste è stata inaugurata Farmer and Artist, manifestazione che celebra la biodiversità, la filiera corta e il mangiare bene. Si tratta della settima edizione dell'iniziativa enogastronomica che oggi e domani trasforma il mercato in un punto di incontro internazionale. Sono 50 le aziende agricole partecipanti, con 20 presidi Slow Food e 9 realtà certificate biologiche. I produttori arrivano da tutto il nord-est italiano e dall'area transfrontaliera di Slovenia, Croazia e Austria, confermando la dimensione sempre più europea dell'evento. All'inaugurazione hanno preso parte il vice sindaco di Trieste Serena Tonelli, il presidente del GAL Carso David Pizziga, i rappresentanti di Slow Food e Agrimercato. Ingresso gratuito, oggi porte aperte fino alle 20, domani dalle 10 alle 19. E oggi a Trieste è in calendario anche la 29esima edizione dell'iniziativa San Nicolò si mette in moto, maratona di beneficenza organizzata dalla Polizia Locale di Trieste con il suo circolo ricreativo Tommasi. Il Santo dei Doni farà il suo ingresso trionfale, scortato da centinaia di moto in Piazza Unità alle 14, e dopo proseguirà per portare i doni ai giovanissimi ospiti di associazioni quali Casa Famiglia Gesù Bambino, Casa della Madre e associazione Io Tifo Sveva. Tempo di Natale, tempo di presepi, sono quasi 200 quelli che si possono ammirare in regione, migliaia di appassionati che vi contribuiscono, e con loro alcuni da poter ammirare in questi giorni in Friuli. Tra il centinaio di presepi in mostra per il quarto anno a Cussignacco, Udine, ce n'è uno costruito interamente in legno di vite e uno fatto di 233 chiodi di ferro. La chiesa ne cella uno artigianale allestito tutto l'anno, nei locali della parrocchia un'altra meraviglia lignea. Esiste un turismo che si sposta nei fine settimana alla scoperta dei più belli del territorio. Quasi 200 parte del circuito presepi FVG, esposti pubblicamente. Non sempre facili da scovare, anche per chi vorrebbe dar loro il pubblico che meritano. Si fa rete, no? Quindi conosci un presepista, conosci un altro, l'altro conosce l'altro. Scovarli non è facile, in Friuli è ancora più difficile, no? Perché ognuno fa il suo presepietto e se lo tiene in casa. In questo caso siamo riusciti a stanarli e a portarli, diciamo così, al pubblico. In piena pandemia nel 2020, i coniugi De Bona hanno deciso che era arrivato il momento di condividere il loro di capolavoro con tutta la comunità di Latisanotta. Ogni anno aggiungiamo un pezzo, ogni anno ci chiudiamo dentro una stanza a costruire per un mese. E poi con il montaggio e tutto, totale sono 2 mesi insomma di lavoro, ecco. L'interno di un capannone di 100 metri quadrati è un incanto di miniature dipinte a mano in movimento, fatte di dash e terracotta, luci, montagne e cascate. Questo non è altro che mangime per pappagalli, l'abbiamo dipinto e abbiamo ricostruito il carro. Quest'anno l'inaugurazione è diventata quasi una festa di paese, con tanto di canzoni di Natale cantate dal coro Virgo Melodiosa. In questa famiglia, ristoratori a Lignano, mamma Rita è l'addetta specializzata in alberi e recinti. Appena finita la stagione e abbiamo incominciato il giorno dopo, abbiamo incominciato là. Cos'è meno impegnativo, fare la stagione a Lignano o il presepe? Ma fra i due non so quale scegliere. Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Per gli spettacoli, l'attore comico e conduttore televisivo Luca Bizzarri sarà protagonista dello spettacolo Non hanno un amico dubbio. Sul palco, riflessioni su attualità, politica, malcostume e frenetici ritmi della comunicazione social. A Trieste, al Teatro Bobbio, alle 20.30. Ha ricevuto 3 premi al Torino Film Festival che si è concluso lo scorso 29 novembre, il documentario intitolato Bobò, la voce del silenzio, dedicato alla straordinaria vita di Vincenzo Cannavacciuolo, noto come Bobò, artista sordo e analfabeta, affetto da microcefalia, che visse per 46 anni in un manicomio ad Aversa. Scoperto dal regista Pippo Del Bono, riuscì a trasformare la sua diversità in forza espressiva, diventando simbolo di dignità e di lotta allo stigma. Il film sarà presentato dal regista a Trieste, al cinema Ariston alle 16 e in serata a Gorizia al Kinemax alle 20.30. Abbiamo intervistato il regista Del Bono per chiedergli quale messaggio volesse trasmettere. Ma diciamo che io non è che volessi dare un messaggio, diciamo che io volevo raccontare la nostra storia. È una storia che poi è piena di messaggi, in effetti, di un uomo che è stato 46 anni in un manicomio e poi è uscito a fare l'artista in giro tutto il mondo facendo l'artista. È chiaro che è una storia importante, una storia di lotta, una storia di rivolta. Questo è logico che è così. Però non è in sé che volevo fare un messaggio generale, no, non ho mai avuto quella di posizione, diciamo, così populista, quindi di dover parlare a tutti di tutto. No, parlando di me, boh, basta. Poi da quella, parlando di me, ho parlato del mondo, di quel mondo lì, di quel mondo, della solitudine che vivono le persone che stanno in quei posti. Però è boh, basta. Senta, in tempi di social network così a voce alta, che cosa ci insegna invece il modo di comunicare anche con il silenzio di questa persona? Beh, bellissimo il silenzio di Bobo, perché Bobo stava molto zitto anche. Che cosa le ha insegnato? Perché credo che stargli vicino sia un'esperienza molto particolare. Ah, mi ha insegnato a ascoltare di più gli altri, a ascoltare di più me stesso, a ascoltare di più lui. E questo mi ha cambiato la prospettiva, un modo di essere. È stata battezzata Il biglietto sospeso, l'iniziativa che al Cinema Splendor di San Daniele del Friuli propone l'acquisto di uno o più biglietti per le proiezioni da lasciare in sospeso per qualcun altro che non può permettersi il prezzo della proiezione. Officine d'autori, l'associazione culturale No Profit, che da oltre 20 anni gestisce la sala, contribuirà donando 50 biglietti ogni mese. Il biglietto sospeso è acquistabile sia in cassa al cinema sia online. Passiamo allo sport, iniziando dalla pallanuoto nella Serie A1 maschile. Dopo la delusione per l'eliminazione dall'Eurocup, la Pallanuoto Trieste ospiterà la Piscina Bianchi, la Training Academy Roma, con inizio alle 14.15, ingresso gratuito. Nella nona e ultima giornata di andata del campionato di Serie A1 femminile, le Orchette Alabardate ospiteranno la Briz Nuoto. Si giocherà sempre nella Piscina Bruno Bianchi, ma con inizio alle 16.30. Passiamo alle rubriche della TGR. Domani sulla terza rete Rai a diffusione nazionale andrà in onda la rubrica Est-Ovest, curata dalla nostra redazione. Sentiamo un'anticipazione. La visita di Papa Leone nella Turchia islamizzata di Erdogan e l'incontro ecumenico con il patriarca ortodosso Bartolomeo. La Croazia ha reintrodotto la leva militare obbligatoria. L'addestramento durerà 2 mesi. Inviate le prime cartoline precetto. In Serbia una serie TV che racconta l'uccisione del premier Zoran Džinčić ha riacceso il dibattito sul mancato sviluppo democratico. Lo scrittore Oleksij Nikitin crea in russo, ma è cittadino ucraino, un testimone del complesso rapporto tra lingua e nazionalità. La regista Carmen Lidia Vidu, nello spettacolo Giornale della Romania, racconta i destini dei suoi concittadini dopo la caduta di Ceausescu. Tutto questo a Est-Ovest, domenica alle 11.05 su Rai 3. E sempre domani, ma su queste frequenze alle 8.50, andrà in onda la tradizionale rubrica Vita nei campi. Sentiamo quali saranno gli argomenti che saranno affrontati. Vita nei campi, il settimanale radiofonico di agricoltura della redazione, in onda la domenica alle 8.50 su Radio 1 Rai, domani parla di novità anche di legge sull'editing genetico in agricoltura. A seguire, ecco quanto pesava sulle casse di parrocchie e comuni friulani del Settecento ospitare gli alti prelati. Frumento da pane, prima tappa nella scelta delle varietà tra semi acquistati, conservati, mescolati. E ancora l'avventurosa epopea via mare del caffè e la sua bassissima diversità genetica. Le fecce del vino, scarti capaci di produrre composti antiossidanti e sempre più interessanti nella conservazione. In Varese alle foreste di pino nero più maestose d'Italia, boschi da seme, riserve di patrimonio genetico. In conclusione, andamento dei mercati agricoli, previsioni meteo e il proverbio friulano. Udine, Rita Micoli, TGR Friuli, Venezia Giulia. E ancora in televisione stasera su Rai 1 in seconda serata è prevista la messa in onda dello speciale Bambini senza nome, documentario girato nei luoghi più suggestivi di Trieste, che vede i protagonisti i vincitori e le vincitrici della 22esima edizione del premio Lucchetta, che con le loro inchieste mantengono alta l'attenzione sui diritti dei bambini e sulle zone del mondo in cui l'infanzia continua a essere più vulnerabile. Chiudiamo con la notizia di una mostra. L'Hotel Savoia di Trieste ospita la mostra di gioielli preziosi d'antiquariato e di pregio dell'artista Silvio Balestra, aperta fino a domenica. E alle 12.58 si chiude qui questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, redatta e condotta da Maria Spezia e da Giorgio Bearz, con la collaborazione tecnica di Marco Ferrito e Mauro Cumin. Ha collaborato in redazione Isabella Parutto. Prossimo appuntamento con il GR, oggi sabato alle 14.30. A tutti l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.